Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Botulinato, coattume, milleurista, zidanata. Sono solo alcuni degli oltre 4.000 neologismi della lingua italiana raccolti in un volume di recente pubblicazione. E la maggior parte di questi sono stati inventati dai giornali. Berlusconi batte Veltroni 20-18. Il presidente del Consiglio tra il 1998 e il 2008 ha regalato alla lingua italiana 20 nuove parole derivate dal suo cognome, due in più del segretario del PD. In ordine alfabetico si va da berluschese, modo di comunicare la politica promosso da Silvio Berlusconi, passando per berluscofobo, berlusconeide, berlusconite e finendo con berlustroni, reciproca assimilazione delle posizioni politiche di Silvio Berlusconi e Walter Veltroni. Invece il segretario del PD può vantare parti del suo cognome da Veltrolandia, mondo sognato e vagheggiato da Walter Veltroni, attraverso Veltronata, Veltrones, ovviamente veltronizzare, e concludendo, guarda caso, con veltrusconismo, tendenza determinata dal reciproco avvicinamento delle scelte politiche di Walter Veltroni e Silvio Berlusconi. Quando si dice il caso, ma stavolta fa riflettere. In 10 anni di registrazione e racconto della realtà, 57 giornali italiani hanno prodotto complessivamente 4.163 nuovi vocaboli. Lo testimonia il volume appena uscito Neologismi, parole nuove dai giornali, edito dalla Treccani e curato da Giovanni Adamo, dirigente di ricerca nell'area linguistica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e Valeria Della Valle, professoressa di linguistica italiana all'Università La Sapienza di Roma. Non si tratta ovviamente, siamo all'Enciclopedia Italiana, di casi estemporanei. Le citazioni giornalistiche sono in tutto 10.132. Per raggiungere l'accettazione ufficiale, una parola ha dovuto affermarsi nella lingua, ovvero apparire più volte e sempre con lo stesso significato. Al netto di Berlusconi e Veltroni c'è spazio anche per Massimo D'Alema, dalemista, per Francesco Rutelli, rutellata, rutellismo, rutelliano. Gianfranco Fini deve accontentarsi di finiano, mentre Tremonti porta a casa tremontiano, Tremonti Boys, Tremonti dipendente, Tremonti pensiero, tremontismo. Mastella è un udeurrino, come Casini è un udiccino. In quanto al resto, ce n'è un po' per tutti i gusti. Gli sportivi possono ora contare su zidanata. Chi si occupa di moda ricorrerà a etno chic. Quella signora dalle labbra insopportabilmente gonfie è sicuramente botulinata. Gli economisti si allenano sulle misure a mazzacosti. Il ministro Brunetta si batte contro il fannullonismo. Quella costruita intorno a una coppia omosessuale rischia di formare una pseudofamiglia. Chi supera gli schemi omo-etero sperimenta la metrosessualità. Gli arabi aprono molte kebabberie nei centri storici italiani tenuti da kebabbari. Attenzione, vuoi vedere che scoppia l'ennesima intercettopoli o la solita ricattopoli? Che gran voglia di gossipare online. La sinistra non parlamentare è in piena debertinottizzazione. Meglio un bicchiere d'acqua di una coca-colonizzazione. Quel politico è attapirante, ovvero è a un passo dalla consegna del tapiro d'oro di Striscia la Notizia. E lo show di prima serata è Pippo Baudiano. L'etimologia è fin troppo evidente. Dice Valeria Della Valle, qui non si tratta di vocaboli trasmessi oralmente, ma di nuovi usi che hanno avuto una consacrazione e un'ufficializzazione attraverso i testi scritti. L'italiano ha una circolazione ridotta e avrebbe potuto correre il rischio di essere sommerso dall'inglese. Invece, per fortuna, riesce non solo a mantenere le posizioni di ricchezza espressiva, ma addirittura è in grado di accrescerle. Queste parole nuove testimoniano lo sviluppo e i bisogni conoscitivi e narrativi di una società. Diventano, insomma, una fotografia della nostra epoca. Una sola obiezione. Il volume registra Raiopoli, scandalo di malcostume nella gestione dell'ente radiotelevisivo italiano, ma stranamente non Rai Baltone, espressione usata ormai da anni per sintetizzare il ribaltone politico di poltrone a Viale Mazzini a ogni nomina di nuovi vertici. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Paolo Conti da Botuliano a Zidanata, le 4.000 nuove parole, dal Corriere della Sera del 2 febbraio. Un anno fa era stata presentata una nuova automobile da $1.500 destinata al mercato indiano. Ma il sogno dell'auto a portata di tutti è rimasto fermo al prototipo. Succederà la stessa cosa anche con il PC portatile da 8 euro? Delhi. Gli occhi del mondo dell'informatica, dalla Silicon Valley californiana a quella indiana, passando per i laboratori cinesi, sono puntati su Tiruppati. È da questa piccola cittadina nello stato meridionale dell'Andhra Pradesh che è partita la sfida dell'India per l'alfabetizzazione informatica dei giovani del suo paese. Sbaragliando di gran lunga in quanto a competitività, l'acclamato progetto One Laptop per Child di Nicholas Negroponte, il governo di Nuova Delhi ha presentato un computer con un prezzo da supermercato hard discount, 500 rupie, solo 8 euro. Sviluppato dalle università di Madras e Bangalore, il laptop più low cost che sia mai stato messo a punto fa parte della missione indiana per l'educazione attraverso l'informazione e la comunicazione tecnologica. Un titolo altisonante per un progetto che racchiude una sfilza di obiettivi, ma che in sostanza punta ad ampliare le possibilità di e-learning per quell'esercito di 240 milioni di bambini che abitano nel subcontinente. Con molta probabilità nei laboratori della taiwanese Quanta, che ha creato il famoso computer da $100, diventati poi 188 di Negroponte, saranno rimasti basiti di fronte al prezzo del PC indiano. E forse anche preoccupati, visto che l'India, con una popolazione di bimbi grande quasi quanto tutta quella americana, può rappresentare un fruttuoso Eldorado per chiunque voglia investire nell'educazione informatica. Con 2 giga di RAM e un sistema per la connettività Wi-Fi, il laptop super economico dovrebbe arrivare sul mercato entro qualche mese. Eppure, non è detto che ci sia da fidarsi ciecamente. L'ultimo trionfante annuncio mondiale arrivato dall'India e che doveva assicurarle un posto nel Guinness delle produzioni low cost è per ora rimasta una promessa congelata in un'istantanea. Era esattamente un anno fa, infatti, che Ratan Tata, il patron della Tata Motors, veniva immortalato da telecamere e obiettivi fotografici dei media di mezzo mondo mentre scopriva il modellino della Nano, l'automobile da €1.500. Strombazzato come il simbolo della prodigiosa modernizzazione del gigante asiatico, doveva diventare l'emblema della nuova classe media del subcontinente e invece, della loro macchina del popolo, gli indiani hanno per ora visto solo quel prototipo in TV. Proprio nei giorni scorsi, dalla casa madre della Tata, a Pune, è giunto l'annuncio dell'ennesimo ritardo. Il lancio iniziale era previsto per ottobre scorso, nel periodo di Diwali, il Natale degli Hindu, quando gli indiani sono ben disposti ad aprire il portafogli. Ma le insurrezioni dei contadini del Bengala occidentale, a cui il governo locale aveva espropriato le terre per far posto allo stabilimento della Nano, hanno costretto il colosso automobilistico a fare i bagagli. Il terremoto economico, anche se non presenta la stessa magnitudo di Detroit, si fa sentire anche a Pune. Nell'ultimo trimestre la Tata, partner della Fiat, ha registrato una perdita netta di 40 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E intanto l'ufficio finanziario sta cercando il modo per far fronte al rifinanziamento dei prestiti per l'acquisto della Land Rover e Jaguar, che l'anno scorso è costato ben $2.3 miliardi. Nonostante la Reserve Bank of India continui a tagliare i tassi di interesse per stimolare le banche a concedere prestiti, se il lancio della Nano fosse avvenuto quest'anno, certamente non avrebbe avuto il successo previsto. Le vendite della Tata sono precipitate del 31% negli ultimi 3 mesi e difficilmente si riprenderanno nel corso del 2009, visto che la crisi ha già mandato a casa quasi 1 milione di lavoratori. Intanto le stime della Banca Centrale, appena riviste al ribasso, prevedono per quest'anno una crescita del PIL del 7,1%, la più bassa dal 2003. Non ci sarebbe quindi da sorprendersi se la commercializzazione dell'economicissimo PC dovesse subire ritardi in stile Nano. Tra la crisi e i facili intoppi che i programmi governativi subiscono per via della sua farraginosa macchina, i giovani indiani rischiano di restare ancora a lungo degli analfabeti informatici, proprio nella patria dell'information technology a basso costo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Valeria Fraschetti «Nell'India della crisi, PC per tutti, nasce il mini portatile da 8 euro» dal Riformista del 3 febbraio. Anche in tempo di crisi, il menefreghismo prevale sulle forme più elementari di educazione, scrive Massimo Gramellini sulle pagine della Stampa. Il treno sta arrivando in stazione. Un giovanotto con la mascella da manager abbassa il finestrino e guarda fuori, alla ricerca di qualche faccia conosciuta. Soddisfatto, recupera la sua 24 ore dal bagagliaio e si accinge a scendere. «Scusi, ma conviene chiuderlo quel finestrino, altrimenti chi salirà dopo di noi morirà di freddo», suggerisce con linguaggio felpato e volutamente impersonale un signore dall'aria serafica. Il giovanotto gli rivolge uno sguardo strafottente. «A me non conviene». E se ne va. Nessun passeggero sembra fare caso a questo episodio di ordinaria solidarietà fra le genti, tranne una ragazza energica che aiuta il signore dall'aria serafica a chiudere il finestrino e intanto commenta: «Lei è troppo buono, al suo posto io gli avrei tirato un calcio in mezzo ai calzoni». Non dice proprio calzoni, ma ci siamo capiti. Da questo aneddoto, raccontatomi da un lettore, un pessimista trarrebbe lo spunto per celebrare i funerali dell'umanità. Se persino in tempi di crisi il menefreghismo prevale sulle forme più elementari di educazione civica, le speranze di veder sopravvivere la convivenza sociale sono ridotte al lumicino. Ma chi è condannato dal titolo della rubrica a concedere sempre un'ultima chance all'ottimismo non può non guardare con simpatia alla ragazza energica. Che diventi mamma al più presto per educare la prossima generazione di calzoni, ricorrendo ai metodi che riterrà più appropriati all'immane compito. A noi conviene. Letture di Radio 24. Nell'inverno 2005, il sindaco di Nova Gorica consegna al sindaco di Gorizia un documento importante che gli è stato fatto pervenire dal Ministero degli Esteri della Repubblica Slovena. È un elenco di 1048 italiani deportati in Jugoslavia dal maggio 1945. Sono solo alcune delle decine di migliaia di vittime alle quali l'Italia rende omaggio ogni 10 febbraio con il giorno del ricordo per le vittime delle foibe. Tra i nomi presenti nell'elenco inviato da Lubiana c'è anche quello di Carlo Macuzzi, del quale si sono perse le tracce dopo il 3 maggio 1945, giorno in cui venne arrestato dai partigiani di Tito. Oggi il nipote, Alessandro Panini Finotti, si immedesima nei panni del nonno per cercare di ricostruire quello che è successo dopo l'arresto. «Sono morto, ma non so quando, né so dove sono morto. Non ho una tomba né una croce e non ci sono lapidi che dicano di me. Sono morto e basta. Un documento dell'ufficio di stato civile del comune di Gorizia mi dichiara morto presunto, perché così la legge dispone venga fatto quando qualcuno scompare e di lui non si abbiano notizie per un determinato numero di anni. Io sono scomparso e non ho potuto dare notizie perché m'hanno ammazzato e non posso dire quando e dove m'hanno ammazzato, perché quel tipo di morte che mi è stata data ha cancellato tutto di me, tutto. Chi muore di solito lo fa in un letto, di casa o d'ospedale, non fa differenza, ma si può morire anche in guerra, in un incidente sul lavoro, per una caduta in montagna, oppure sotto un treno. A me non è capitata una morte normale, se così si può definire l'inevitabile cessare di vivere. Sono stato arrestato e poi ammazzato, scomparso. Quello che posso dire di indubitabile è che la fine della mia vita è stata decisa a Gorizia, la mia città, nel pomeriggio di giovedì 3 maggio dell'anno 1945. Ero uscito di casa per una passeggiata verso la stazione Montesanto, con l'intenzione di fare la strada che avevo percorso in tanti anni e tutti i giorni per andare al lavoro. Quella passeggiata aveva ormai le caratteristiche di un evento rituale. Camminavo sempre sullo stesso marciapiede, mi fermavo ad ammirare sempre gli stessi alberi. Sostavo nell'identico posto per rimirare la forma dei palazzi antichi. Nello svoltare carezzavo sempre gli stessi spigoli delle case d'angolo. E questa ripetitività serviva a dare conforto agli anni che stavano declinando. Dimenticavo di dire che mi chiamo Carlo Macuzzi e sono nato nel febbraio del 1876 a Gorizia, Gors, come si scriveva allora alla tedesca, quarto figlio di Antonio e Caterina Simprize. Il 25 aprile era passato da pochi giorni. La guerra era finita, ma la guerriglia era feroce nella Venezia Giulia. E c'erano tante ragioni, prima di tutte il buon senso, per stare nascosti e quieti. Ma quel pomeriggio di giovedì 3 maggio del 1945, niente mi pareva ostile. Così diedi retta alla voce interiore che suggeriva di andare, di non avere preoccupazione e tenere lontani i brutti pensieri, almeno per le belle ore della passeggiata. Quel giovedì di maggio, dunque, il pomeriggio era tiepido di sole. Lo ricordo con rimpianto perché sarebbe stato l'ultimo sole italiano a darmi calore. L'inverno appena passato era stato lungo e da noi particolarmente cattivo e avevamo salutato l'arrivo della primavera con gioia contenuta, avvertendo da tanti segnali che avremmo dovuto ancora molto penare. I tedeschi si stavano ritirando, ma lo facevano con meticolosa, rassegnata lentezza, tanto che domenica 29 aprile una camionetta con l'altoparlante aveva percorso la città informando i goriziani che chi aveva da riscuotere, fornitori, lavandaie, sarte, barbieri, scritturali, poteva recarsi in fretta al comando per ricevere il dovuto. E questo tardivo scrupolo di pagatori aveva indotto molti al sorriso. Se ne vanno finalmente, ma almeno non lasciano debiti. Gli alleati erano in avvicinamento da sud e si diceva che i neozelandesi fossero già in vista di Gorizia, ma che avessero rallentato l'avanzata per dare tempo agli jugoslavi di occupare gran parte della Venezia Giulia, onorando un patto segreto con il maresciallo Tito. Ma in verità un patto così turpe non c'era. Era accaduta invece un'altra cosa. Gli jugoslavi, assetati di ritorsione, si erano avventati sull'Istria, su Trieste e su Gorizia, con un impeto e con una voracità feroci, per affermare, con l'occupazione militare, che quelle terre erano di loro spettanza, e chi avesse osato ostacolare questo disegno era da spazzare via. Gli storici hanno documentato che nell'estate del 45 c'è stato il rischio di un confronto armato tra gli alleati e gli jugoslavi per il controllo di Trieste. Se la sfida di Tito all'America di Truman e alla Gran Bretagna di Churchill non avesse avuto una ferma risposta, probabilmente Belgrado avrebbe avanzato altre pretese, tali da sconvolgere i piani degli alleati, che nel timore dell'espansione sovietica si proponevano di ottenere il mantenimento di uno stato di quiete nell'Europa centro-meridionale. Le preoccupazioni degli occidentali erano rispondenti alla pericolosità della situazione, se si pensa che già alla fine di aprile i partigiani di Tito e truppe regolari dell'armata jugoslava erano piombati su Trieste e come primo atto avevano imposto il controllo sull'amministrazione civile. Assoggettando la vita della città ai loro decreti, volevano dimostrare di essere padroni in casa propria. Partigiani a piedi e a cavallo si erano visti anche a Gorizia. Nei dintorni c'erano stati scontri sanguinosi con i tedeschi e con i reparti della decima massa, e adesso che il terreno di contesa sembrava ripulito, se ne temeva l'arrivo in forze. Le loro avanguardie avevano catturato l'arcivescovo Carlo Margotti con il segretario Don Piero Anglade e un giovane chierico, Felice Suligoi, e li tenevano rinchiusi a Villa Coronini, un suggestivo edificio d'epoca alla periferia della città. In quella splendida dimora, circondata da un vasto parco con statue e una grande varietà di essenze, appena fuggiti i tedeschi si erano installati gli uomini dell'Ozna, la polizia segreta jugoslava. A questi improvvisi cambiamenti di fronte eravamo abituati, soprattutto noi più vecchi, e per questa ragione speravamo che arrivassero in fretta gli alleati per mettere la parola fine al continuo rovesciamento degli scenari di guerra. Dei partigiani di Tito tutti avevano paura. Chi veniva catturato aveva di fronte due possibilità di morire, legato con altri e scaraventato in una foiba, oppure con una pallottola nella nuca e poi in una fossa comune. Già nel 1943 tanti italiani erano stati massacrati in questo modo. Quel pomeriggio di giovedì 3 maggio, dunque, dopo essere uscito dal nostro piccolo appartamento al primo piano di una vecchia casa, al numero 5 di via Arcivescovado, avrei raggiunto il piazzale della stazione. Poi avrei compiuto un giro sotto le pensiline. Di quella struttura di ferro conoscevo ogni metro. Poi avrei dato un'occhiata oltre la vetrata della porta del mio vecchio ufficio. Quindi, il ritorno. Avevo compiuto da poco 69 anni e la buona salute mi consentiva un'andatura giovanile lungo quel solito itinerario, tre quarti d'ora all'andata e altrettanti al ritorno. Avevo l'abitudine di scegliere la strada lasciando la decisione al cielo. Guardavo in aria e se c'erano nuvole minacciose imboccavo via Carducci, avendo la certezza della protezione di tanti tetti se avesse piovuto. L'altra strada era da preferire con il tempo buono. Così garantiva il cielo quel pomeriggio. Mentre con il naso nell'aria stavo decidendo, intravidi sul marciapiede di fronte, nell'ombra del portone del palazzo vescovile, tre uomini che sembravano aspettare qualcuno o che forse stavano facendo la guardia all'arcivescovado. Mi convinsi che non avevo niente di cui preoccuparmi. Ero pensionato da tempo, non avevo mai svolto attività politica e avevo anche smesso di fare il traduttore per conto dei tedeschi. E poi un uomo vecchio, sia pure in buona salute ma vecchio, quali rischi poteva correre? Mi sono accorto di essere seguito dopo aver svoltato per via del seminario. Quei tre mi stavano dietro e potevo sentire i loro passi. Dovevo affrettarmi? Dovevo girarmi e tornare verso casa? Seguivano me? Oppure percorrevano per caso la stessa strada? Mi tranquillizzai, facendo forza sul pensiero che a Gorizia l'antica convivenza con gli sloveni dovesse essere la migliore garanzia contro ogni rischio. Ma poi me perché? Anch'io avevo sangue slavo da parte di madre. Lo sloveno era stata la mia prima lingua, poi il tedesco era diventato dominante. In più c'era l'italiano, imposto in casa da mio padre che si professava figlio di Venezia, ma con il cuore suddito fedele e grato dell'imperatore Francesco Giuseppe. Per strada rari i passanti, qualche donna con i bambini, portoni e persiane chiusi, serrande di botteghe abbassate, le tracce della guerra visibili anche se modeste a confronto delle distruzioni enormi provocate dalle battaglie per la conquista della città nella Grande Guerra. Avevo percorso tutta via del seminario ed ero giunto all'incrocio con via Italico Brass quando avvertii i tre vicinissimi. Ero tentato di correre, ma sapevo di non poterlo fare a lungo. Stavo allora per girarmi quando venni bloccato da molte mani. Una spinta ed ero scaraventato contro il muro, senza via di fuga. In quel momento li vidi in faccia. Giovani, robusti, scuri di carnagione, con i capelli rasati, facce slave di campagna, dure, sopra abiti civili. Pensando ai partigiani, mi meravigliò che non indossassero la divisa, ma poi mi venne da concludere che senza l'uniforme era più facile passare inosservati e fare gli agguati, come stavano facendo adesso con me. Da una tasca uscì una cordicella e con quella mi legarono i polsi. Volevo gridare, ma non ci riuscii. Quasi sollevato di peso, mi spinsero dentro un portone che uno dei tre aveva spalancato a spallate e adesso ero nell'ingresso di un palazzotto proprio dove cominciava la strada. Lì accanto c'erano i gradini che scendevano in cantina e con terrore mi venne da pensare che mi volessero buttare di sotto, nel buio della carbonaia. Tutto era durato pochi momenti e tutto s'era svolto in silenzio. «Cosa volete da me? Chi siete?» Mi uscì una voce strozzata. Quello che pareva il più anziano mi afferrò al collo. Lo strinse e con voce pesante, in sloveno, mi soffiò in faccia. «Sei un fascista! Libertà ai popoli! Viva Tito!» Caddi a sedere sul gradino più basso. Tutto pareva irreale, un incubo angoscioso. Mi venne da piangere, ma mi imposi di non farlo, vergognandomi della mia debolezza di fronte alla minaccia di quelli che adesso erano i miei carcerieri. Uno dei tre era uscito e i due rimasti parlavano a bassa voce appoggiati al portone, ma io non riuscivo a sentire quello che dicevano perché nelle orecchie, adesso, avevo soltanto il rimbombo dei battiti del cuore. Nel tentativo di placare l'angoscia e per ricacciare le lacrime inghiottivo saliva, ma avvertivo un dolore acuto alla gola, dove aveva stretto la morsa di quelle mani. Era passata una mezz'ora e quello che era uscito rientrò, accompagnato dal rombare di un motore. Mi fecero alzare e mi spinsero verso l'uscita davanti alla quale c'era un autocarro con il cassone ricoperto da un telo. Era un autocarro senza insegne, ma mi parve di riconoscere un modello tedesco, uno di quelli che avevo visto passare tante volte in città. Sollevarono il telo da un lato, abbassarono la sponda e mi spinsero dentro. Due, che erano sopra, con il mitra puntato mi costrinsero a sedere su una panca alle spalle della cabina. Fu allora che m'accorsi della presenza di facce spaurite. Erano altri uomini, seduti con i polsi legati da cordicelle stretti tra le ginocchia, tutti immobilizzati da una corda agganciata alle sponde. Mi pareva di non conoscerli, ma la luce era scarsa e forse la paura aveva stravolto la loro espressione. Appena s'era mosso, due di quelli che mi avevano fatto prigioniero erano balzati sul camion e il terzo s'era infilato nella cabina di guida. Potevo vedere adesso la sua nuca rasata attraverso il finestrino impolverato alle spalle del conducente. Abbassando il capo e girandomi un poco, potevo anche rendermi conto del percorso che stavamo facendo. Una breve discesa ed ecco la piazzutta deserta. Conoscevo bene quella piazza e quelle case, perché lì ero nato. A Avete ascoltato la lettura di un passaggio dal libro La mia foiba di Alessandro Panini Finotti, Graus Editore, 132 pagine, 10 euro.